questa manifestazione nasce da una chiamata proposta dall'associazione CISDA, che è un'associazione femminista che lavora con le donne dell'Afghanistan da più di 20 anni, e quindi ovviamente in questo momento in particolare si è mobilitata a sostegno di tutta la popolazione afghana, donne e bambine in particolare. È una chiamata che prevede una sorta di compresenza di tante piazze sul territorio nazionale. Attualmente credo siamo a 11 piazze in tutta Italia, e che saranno piazze virtualmente collegate tra loro e che si mobiliteranno alla luce di un medesimo appello. In ogni piazza ovviamente avremo l'aggregazione, la collaborazione di realtà molto differenti. Per quanto riguarda la piazza di Bologna, saremo insieme all'associazione Orlando, appunto, ci sarà anche l'associazione delle donne in nero, avremo diverse realtà hanno aderito a questa chiamata, tra cui anche la CGIL, il Master di Studi Genere Gemma, quindi ci sarà come sempre una ampia e variegata rappresentazione di realtà differenti. Tra le notizie che arrivano dall'Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani, insomma, le donne stanno mostrando coraggio anche nel protestare. Abbiamo visto alcune manifestazioni anche di piazza. Qual è la loro condizione? Purtroppo c'è una narrazione mainstream che rappresenta le donne afghane come succubi e sostanzialmente in balia della situazione gravissima, e quindi senz'altro gravissima, che si è realizzata a partire dalla presa del potere dei talebani. In realtà noi sappiamo che in Afghanistan ci sono delle situazioni composite e delle realtà molto organizzate che da 20 anni lavorano accanto di forze democratiche per la realizzazione di tutta una serie di principi, leggi che garantiscano la parità, ma anche appunto la democrazia di quei luoghi. Penso a Rawa, che è l'associazione di donne rivoluzionarie afghane che ha lavorato da sempre in quei contesti e che lo vorrei ricordare, l'ho già detto in altre occasioni. Era comunque considerata un'associazione clandestina anche prima del rientro dei talebani in Afghanistan, quindi lavorava diciamo così in clandestinità attraverso una serie di progettualità molto radicate sui territori, che erano progettualità volte per esempio al recupero delle terre. Sappiamo che c'è un problema di povertà alimentare in Afghanistan e c'è un discorso di sottrazione delle terre alle famiglie, alle persone del posto, perché questi territori vengono adibiti alla coltivazione del papavero per l'oppio. Quindi c'erano una serie di azioni già in atto. E questa è un volto, una faccia dell'Afghanistan che in questo momento non sta emergendo. In questa realtà di resistenza e questo tentativo di costruzione di un regime democratico, le donne sono state protagoniste, quindi lo sono anche ora, e sono anche organizzate. E infatti il presidio lanciato, l'appello lanciato dal CISDA è anche a sostegno di questo movimento di donne rivoluzionarie. Qualche tempo fa avevate con una rete di donne di tutta Italia incontrato la Farnesina sulla questione dei corridoi umanitari, o comunque di mettere in sicurezza attiviste che rischiano proprio la vita. Avete avuto aggiornamenti su questo? Allora, noi sappiamo più o meno qual è il numero di persone che sono riuscite ad uscire dall'Afghanistan prima della chiusura dell'aeroporto e quindi del venir meno del ponte aereo. Sappiamo anche che sono persone che per lo più avevano avuto una stretta collaborazione con il governo sostenuto dalle forze occidentali. In questo momento stiamo cercando di realizzare degli incontri, perché queste persone che sono arrivate hanno avuto comunque un periodo di quarantena come previsto dalla legge, e quindi stiamo cercando di raggiungerle. Dovremmo avere a breve dei contatti diretti per capire, avere una condivisione dei loro racconti, una restituzione di quello che è accaduto, perché la situazione è molto molto complessa. Sappiamo anche che l'istituzione dei corridoi umanitari è un aspetto molto complesso in questo quadro geopolitico, e quindi si parla appunto di paesi terzi che possono costituire un canale di passaggio. Una cosa che stiamo ponendo sia a livello appunto di rapporti con il ministero, ma anche e soprattutto di rapporti con gli enti locali è la necessità che tutte le associazioni di donne, in particolare le associazioni che si occupano con attenzione a situazioni di trauma e di violenza, la necessità di avere operatrici qualificate per un intervento immediato in accoglienza alle donne e ai bambini che arrivano dall'Afghanistan, perché sappiamo che hanno vissuto situazioni di estrema violenza ed è molto importante che il riconoscimento del trauma avvenga e sia trattato in qualche maniera da donne e persone qualificate per questo, e quella che è l'accoglienza tra virgolette tradizionale non prevede l'ingresso, la possibilità di agire direttamente da parte di associazioni di donne, centri antiviolenza e realtà simili. Quindi questo è un aspetto su cui stiamo lavorando, stiamo chiedendo alle istituzioni, perché secondo noi è determinante nell'accoglienza in questa situazione.